paese sopra il monte, son ritornato ancora. Vedo la mia casa presso il ponte e già mi batte il cuore. Sulla soglia siede una vecchietta che sola se ne sta, è la cara mamma che m'aspetta e piangere mi fa. Sento il din don don dell'antico campanile, sento il cigolar della ruota del mulino. Piccolo paese sopra il monte, son ritornato ancora. Piccolo paese con la fonte, sei sempre come allora. Come allora.